Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Salva Danaio di Radio 24. Obiettivo: alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e cercare in termini generali di ridimensionare la conflittualità in molti settori e contenziosi di natura commerciale. E allora, tutto questo preambolo per dire che c'è una novità importante sulla quale, per la verità, abbiamo cominciato a preparare il terreno già da un po' e con la quale dovremo abituarci a prendere confidenza sempre di più nei prossimi mesi. Da marzo, infatti, entra a regime la mediazione obbligatoria e per tutta una serie di materie diventerà proprio obbligatorio rivolgersi ad un organismo di conciliazione, ad uno dei tanti, forse già ne stanno nascendo un po' troppi, ma questo è un aspetto che affronteremo nel corso della trasmissione, distribuiti sul territorio, di fronte al quale si dovrà cercare di risolvere la controversia mediamente di natura commerciale, ma non solo, evitando così il ricorso al giudice ordinario. Il campo d'azione sarà vastissimo, dai contratti assicurativi a quelli bancari e finanziari, fino alle liti in materia persino di patti di famiglia, successioni e divisioni, quindi anche la tematica del diritto di famiglia entra nella conciliazione, nella mediazione obbligatoria, fino alla diffamazione a mezzo stampa. E allora oggi abbiamo voluto riportare questo argomento a Salva Danaio per cercare di capire la portata di tutta questa novità, anche perché nelle altre occasioni, parlandone, non abbiamo forse ben spiegato cosa si potrà fare, a chi ci si dovrà rivolgere, quale sarà la procedura da seguire. Allora, per tutto questo, oltre a Salva Danaio, c'è anche allegata alle Sole 24 Ore del lunedì la guida pratica sulla mediazione delle controversie e, come sempre, come sapete, questo praticamente per noi è un appuntamento ormai fisso ogni lunedì con le guide del Sole, c'è la possibilità per i lettori del Sole di collegarsi al sito del Sole 24 Ore e inviare i propri quesiti all'indirizzo www.ilsole24ore.com/, cioè la barretta di traverso, mediazione civile. Le risposte che invierete saranno prese in esame dal solito pool di esperti che il Sole mette a disposizione e le prime risposte, appunto, ci saranno domani sul quotidiano e a partire da mercoledì sul sito del Sole 24 Ore. Per chi non avesse tempo di collegarsi al sito o leggere domani il giornale, oggi può sbizzarrirsi a rivolgerci delle domande su questo argomento all'800240024 oppure scriverci al 349-238-6666. Noi stamattina discuteremo di tutto questo intanto con il collega del Sole 24 Ore che ha coordinato il dossier in uscita oggi, Andrea Candidi. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Collegato presso i nostri studi di Roma, di Radio 24, e poi saluto, perché invece mi fa compagnia qui negli studi di Milano, il dottor Marcello Guadalupi, consigliere delegato alla conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E collegato invece da una città siciliana, ma non gli ho chiesto da quale, ma 1095 di prefisso mi fa così capire che di terra siciliana stiamo parlando, l'avvocato Fabio Florio, coordinatore della Commissione Mediazione del Consiglio Nazionale Forense. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi, siamo a Catania. Catania, infatti, il prefisso è catanese, accidenti, e poi conosco anche un sacco di gente, un sacco di amici, adesso stamattina mi stava sfuggendo. Comunque, grazie a voi tutti per essere con noi, devo anche dare un'informazione di servizio, perché la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in collaborazione con il Sole e il Ministero del Lavoro, hanno organizzato per il 17 novembre dalle 9.30 alle 13 un forum collegato al lavoro che verterà su temi diversi, un vero e proprio confronto pubblico fra ministero e consulenti in collegamento via satellite sul tema anche della mediazione nell'ambito della conflittualità nel mondo del lavoro, e questo sarà anche un pretesto magari per noi per seguire un po' l'esito di questo forum e magari organizzare più avanti un Salva Danaio apposito su questo argomento, perché è un tema assai delicato, quindi probabilmente merita un'attenzione a sé. Allora, prima di partire con l'argomento di stamattina, rapidamente la borsa, vi abbiamo già detto cosa sta succedendo, sono un po' volatili stamattina i listini del vecchio continente, perché proprio in attesa di capire se è vero o no che l'Irlanda sia pronta a chiedere il pacchetto di aiuti europeo per arginare la problematica finanziaria enorme che ha in bilancio in questo momento, le borse appunto stanno valutando che direzione prendere, sono però piuttosto incerte, stanno mantenendo un quadro contrastato. Milano poco fa fa perdeva mezzo punto, adesso lo ha di nuovo ridimensionato, meno 0,06%, Parigi meno 0,05%, Francoforte è positiva per lo 0,11%, Londra meno 0,20%, ed è abbastanza tranquillo anche il mercato valutario, l'euro sul dollaro stamane quota 1,36,24, quindi su questa vicenda torneremo sicuramente nelle prossime ore, la storia irlandese. Milano stamattina premia Ansaldo più 2 Fiat più 1,7, Bulgari più 1,41, Prismian più 1,23, mentre abbiamo ancora un forte ribasso per Geox, di cui il mercato contesta vivamente la trimestrale, anche oggi meno 3 punti, Banco Popolare meno 1,91, Parmalat meno 1,47, Mediaset in ribasso di un punto con Luxottica e la Popolare di Milano. Noi lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Da marzo diventa obbligatoria la mediazione, sentiamo di che cosa si tratta. La conciliazione è sempre più vicina ai blocchi di partenza del prossimo marzo, quando verrà definitivamente introdotta la mediazione obbligatoria in molti ambiti. Una buona notizia per imprese e consumatori, che potranno sperare in una maggiore celerità nella risoluzione delle controversie, ma anche per il sistema giudiziario, che vedrà il proprio carico di lavoro snellirsi notevolmente. Di fatto, questa procedura, e con essa la figura del mediatore o conciliatore che ne è il responsabile, verrà inserita come filtro obbligatorio prima di una citazione diretta in giudizio, passaggio che in caso di risoluzione positiva potrebbe portare ad una conclusione molto più rapida con un accordo accettato dalle due parti. Oltre alle controversie bancarie, assicurative e finanziarie, che vedono questa pratica già largamente in uso, il ventaglio delle materie per cui è prevista questa modalità obbligatoria coinvolge anche ambiti di interesse quotidiano per i privati cittadini, dalle liti di condominio ai risarcimenti danni per gli incidenti stradali. Sarà quindi importante per il consumatore conoscere bene il funzionamento di questo nuovo strumento in modo tale da saper sfruttare questa opportunità, una possibilità sempre più concreta di far valere i propri diritti sotto il controllo di un arbitro super partes, evitando di restare impigliati nei lenti ingranaggi della macchina giudiziaria, che potrebbe a sua volta alleggerirsi dal peso degli arretrati e ripartire con maggiore agilità. Che obiettivo ambizioso che si ha, naturalmente speriamo che effettivamente possa essere raggiunto, magari non in tempi brevissimi, e però insomma l'obiettivo è proprio quello, cercare di alleggerire il lavoro all'interno dei tribunali, che sono già alle prese con carichi penali enormi, e quindi se si potesse quantomeno alleggerire il carico di tutto il civile sarebbe effettivamente una gran cosa nel nostro paese. Andrea Candidi, coordinatore, come dicevo prima, del dossier che esce oggi con il Sole 24 Ore, la mediazione delle controversie, istruzioni per l'uso, la lite si chiude senza passare in tribunale. Tu enfatizzi soprattutto un aspetto: bisogna in ogni caso attraversare un cambio di mentalità prima di tutto. È così. Adesso abbiamo uno strumento legislativo che ci consente di evitare di passare per il tribunale per risolvere una lite con il vicino di casa, ad esempio. Dopodiché la cosa principale, la variabile prima, è il cambio di mentalità che ha chiesto alle parti, cioè qui ci vuole una volontà effettiva, concreta, di mettersi d'accordo, perché se non c'è quella difficilmente questo strumento può funzionare. E infatti, allora, naturalmente per poter portare anche a questo cambio di mentalità bisogna far comprendere molto bene, questo ovviamente anche il compito un po' della nostra trasmissione a tutti i nostri ascoltatori, che cosa sarà possibile fare, per quali tipi di conflitto si potrà andare a mediazione e soprattutto quanti vantaggi, e in ordine di tempo ma anche economici, ci potrebbero essere appunto dall'intraprendere una via di questo tipo. Prima di sentire l'avvocato Florio, coinvolgo subito invece il dottor Guadalupi, Ordine dei Commercialisti di Milano, perché con lui già nei mesi passati su questi argomenti ci eravamo sentiti e per esempio a maggio ci aveva portato un interessante rapporto sulla mediazione e la giustizia ordinaria, tempi e costi per le imprese italiane. Che cosa era emerso da questo rapporto che probabilmente, dottor Guadalupi, è ancora attuale? Questo rapporto ci aveva dato delle indicazioni ben precise, dicendo appunto che il ricorso alla mediazione continuava a crescere in Italia, e continua a crescere in tutte le materie dove ancora non era obbligatorio questo tentativo. Quindi ci ha dato una indicazione ben precisa, che è proprio quella di un lavoro fatto sul territorio, soprattutto dei professionisti della mediazione. Quindi gente preparata, gente con una formazione adeguata, che ha la capacità di far capire alle parti quanto sia interessante poter gestire direttamente la propria controversia e quindi poter trovare quello che noi diciamo l'accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ecco, la categoria dei commercialisti come si è preparata e come valuta la portata di questa novità? Noi abbiamo sempre posto l'accento sulla formazione professionale e non abbiamo mai fatto una questione di categoria, ma abbiamo sempre detto che il professionista deve essere adeguatamente formato, e noi abbiamo delegato la nostra scuola di alta formazione proprio a preparare questi corsi, a preparare i nostri iscritti proprio al... Ma per farli diventare eventualmente tavoli di conciliazione? Sì, per farli diventare tavoli di conciliazione, ma per dare la preparazione adeguata ai nostri professionisti, ai nostri iscritti, proprio per aiutare le parti a dirimere le loro controversie, i loro conflitti. Ma anche ancora di più ha fatto il Consiglio Nazionale, perché ha messo in piedi attraverso la Commissione Nazionale sulla Conciliazione, che è delegata al collega Felice Ruscetta, un tavolo di coordinamento di tutti gli enti formatori, proprio per trovare delle linee guida che possano essere condivise da tutti gli enti formatori in materia proprio di mediazione. Allora, non riesco adesso, perché devo già andare nella prima pausa a sentire l'avvocato Florio e quindi poi ci faremo spiegare naturalmente qual è la posizione dell'ordine forense rispetto a questa rivoluzione nella gestione delle controversie, perché qualcuno insomma temeva che la conciliazione mettesse fuori gioco l'assistenza legale, poi abbiamo appreso che naturalmente così non è, perché in ogni caso poi per controversie evidentemente riportata anche molto importante è chiaro che questa assistenza non può venir meno, sicuramente però può condurre a snellire ugualmente i tempi dei conflitti. 800 24 00 24, numero verde per le vostre considerazioni. C'è già Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza, devo sentire tutti dopo, a tra pochissimo. Oggi a Salva Danaglio propone la guida pratica del Sole 24 Ore. Oggi esce quella sulla mediazione delle controversie, la mediazione di conflittualità di vario tipo, che entrerà in vigore, diventerà obbligatoria a partire da marzo, e quindi insomma una rivoluzione di una portata enorme, perché per molte controversie insomma non si potrà dilungare il tempo oltre i 4 mesi. Entro 4 mesi le questioni devono essere risolte. Io la dico in maniera ovviamente molto, molto sintetica e molto banale, ovviamente le questioni sono un po' più complesse rispetto a quanto non le raccontiamo, ma l'obiettivo finale è alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari. E allora che cosa si potrà fare? Adesso magari faremo anche qualche esempio di controversia per capire dove si deve andare concretamente, quanto ci costerà, da chi ci dobbiamo far assistere, se possiamo fare da soli o meno. E qui naturalmente devo chiamare in causa l'avvocato Fabio Florio, coordinatore della Commissione Mediazione del Consiglio Nazionale Forense, quindi l'ambito legale. La conciliazione, si temeva, avvocato Florio, mettesse fuori gioco l'assistenza legale in qualche maniera, e la categoria ha avuto delle prese di posizione anche piuttosto forti in passato rispetto a questa novità normativa che stava arrivando. Per esempio, so che non vi era piaciuta molto la norma che vi impone come legali di informare l'assistito della possibilità di avvalersi della mediazione. Oggi sono cambiate le cose? Ma direi sicuramente sono cambiate. Innanzitutto voglio precisare che rispetto a tanti articoli così che sono apparsi sui quotidiani dove si parlava di un'avvocatura di traverso, no, assolutamente no. È un'avvocatura che, come dire, sotto anche il profilo dell'attività ha voluto un momentino verificare sul luogo quello che sono le difficoltà di una legge del genere. Noi sappiamo che la mediazione è uno strumento assolutamente validissimo, ma sappiamo anche che l'obbligatorietà non risponde ai vincoli europei né all'esperienza che è stata maturata in Europa, e quindi questo è stato un primo punto che abbiamo cercato subito di contestare. In ordine poi a quella che è la realtà dell'avvocatura nella sua, chiamiamo, totalità, è chiaro che così come con i dottori commercialisti noi ci stiamo preparando, in maniera concreta, non solo come Consiglio Nazionale Forense, ma anche come la Scuola Superiore dell'Avvocatura, che è una nostra promanazione, perché riteniamo che la presenza dell'avvocato, soprattutto la sua preparazione, qualunque sia il ruolo che svolga nella mediazione, sia come mediatore, sia come assistente alla mediazione, deve essere un ruolo assolutamente qualificato. Ci stiamo preparando in questo senso, sappiamo che le difficoltà sono tante, il decreto ministeriale è uscito con notevolissimo ritardo, abbiamo necessità di organizzarci, come dice la legge, all'interno dei palazzi di giustizia, creando un organismo di conciliazione proprio all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale, ma tutto questo chiaramente con una struttura e una macchina organizzativa non di facilissima realizzazione. Tra l'altro volevo ricordare, avvocato, anche agli ascoltatori che ce lo chiedono, perché noi ne abbiamo anche di molto precisi, di ascoltatori fedelissimi di Radio 24 di Salvadanaio, che ci chiedono i termini normativi appunto della nuova mediazione, che è regolata dal decreto legislativo 28 del 2010 e dal decreto del Ministero della Giustizia 180 sempre di quest'anno. Una... Sì. Ecco, questi sono un po' i due aspetti principali su cui stiamo cercando di lavorare e su cui stiamo cercando di preparare anche il cittadino, che è la cosa più importante. Esattamente. Le faccio sentire però intanto un altro avvocato, Giuseppe da Roma, poi io, siccome sapete bene, conoscete molto bene il taglio di Salvadanaio, che è molto pratico, noi vorremmo dare veramente le istruzioni per l'uso, senza rubare il titolo di altre trasmissioni che vanno su altri canali, sulle modalità di accesso a questo canale, appunto, per risolvere le controversie di natura commerciale, ma poi abbiamo visto che l'ambito è talmente ampio per cui dovremmo dare indicazioni molto pratiche. Faccio fare l'ultima polemica a Giuseppe da Roma, dopodiché la chiudo subito. Giuseppe, benvenuto, un avvocato. Grazie, benvenuti, cioè ben trovati, e grazie Sole 24 Ore per il servizio eccellente che fate. Meno male, Giuseppe, ci dica. Sì, saluto il collega. Allora, pochissime battute. L'entrata in vigore di questa norma sarà devastante per la giustizia e darà l'ultima spallata ad una giustizia già traballante, perché per due motivi principali, potrei parlare ore, guardi. Uno, si allungheranno i tempi, e non è vero che sono solo 4 mesi. Due, aumenteranno i costi per i cittadini, che è la cosa più importante. Tre, noi inviteremo ad un tavolo due persone che litigano da una vita e che si sono determinate ad andare dal giudice dicendo: volete mettervi d'accordo? No, per fare quello dovranno pagare. Un'ultimissima cosa, al Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova il prossimo 24 novembre, noi presenteremo una mozione, io sono tra i delegati e da Roma, un gruppo di avvocati di Roma presenterà una mozione contro la mediazione. Ultimissima cosa, per quanto ne so, i vertici dell'OUA, e sa bene il collega che mi ascolta a cosa mi riferisco, sono contrari alla mediazione. Resto in linea o me ne vado? No, Giuseppe, la ringrazio. Abbiamo capito chiaramente le sue posizioni, come ripeto, noi le raccogliamo naturalmente volentieri, poi abbiamo un altro spirito nella nostra trasmissione, le contestazioni di natura politica, chiamiamolo così, trovano posto in altri ambiti, a Radio 24, però io la ringrazio per averci fatto anche capire con grande chiarezza, l'avvocato Florio molto diplomaticamente era stato più leggero, quelle che sono le vostre posizioni. Vedremo che cosa succederà. Andrea Candidi, però insomma, questo ci ha fatto un po' capire stamattina quanto probabilmente sia stato difficile arrivare anche ad un percorso che oggi ha una cornice legislativa molto precisa. D'altronde, qualche volta, per fare dei passi avanti, l'avvocato Florio diceva prima, noi abbiamo un po' contestato l'obbligatorietà che non corrispondeva secondo noi anche ai criteri europei, ma qualche volta per apportare delle novità molto importanti bisogna passare attraverso l'obbligatorietà. Faccio un esempio, sai tutta la polemica, tutta la discussione che c'è sulla sola questione delle quote rosa, no, nel nostro paese, magari per permettere a più donne di entrare in certi ambiti si passerà attraverso la legge, ma proprio perché per portare delle rivoluzioni qualche volta quel passaggio è fondamentale. Andrea, non so come la pensi, forse l'ho presa un po' troppo alla larga, però no, un po' questo. Assolutamente, bisogna un po' forzare la mano ed è quello che la legge, che le norme tentano di fare, perché è vero che la procedura, come tu hai detto all'inizio della trasmissione, sono due procedure sostanzialmente, una volontaria in cui le parti, una delle parti presenta una domanda di mediazione a prescindere dal fatto che per quella materia sia obbligatoria o meno, e poi spetta all'altra parte aderire o meno a questo tentativo di accordo amichevole, di ricerca di un accordo amichevole. Dall'altra parte c'è quella obbligatoria, ed è lì dove il legislatore ha un po' forzato la mano e quindi per una serie di materie, tra cui locazioni e condominio, quindi parliamo di un contenzioso molto ampio, diventa obbligatoria. Però è un'obbligatorietà, diciamo, fino a un certo punto, nel senso che qualora le parti non si mettano d'accordo, la partita potrebbe finire lì, a meno che il mediatore, e qui è un'altra forzatura, se vogliamo così dire, della legge, non presenti lui una proposta. E cioè praticamente il mediatore a quel punto non è più solo un arbitro che mette d'accordo le parti, ma diventa quasi un regista, quasi un giudice sostanzialmente, perché dice: vabbè, voi non vi mettete d'accordo, allora la mia proposta per la vostra causa è la seguente. Dopodiché sta alle parti aderire o meno. Nel momento in cui però il mediatore fa la sua proposta, questa proposta ha delle conseguenze nell'eventuale giudizio successivo. Mm-hmm. Comunque, insomma, l'idea è che bisognerà vedere anche lo stato dei fatti con la prassi, che cosa succederà. Probabilmente lì si riuscirà ad avere un'idea un po' più chiara anche dei limiti della normativa per come è impostata in questo momento. Si deve partire, immagino, per verificare opportunità e difetti eventualmente della legge. Allora, andiamo proprio al pratico, visto che è l'ambito che mi piace di più, con le domande dei nostri ascoltatori. Maurizio, dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno a voi. Prima cosa, mi è piaciuto l'ottimismo dell'avvocato che è intervenuto da Roma. In ogni modo, io sono un piccolo artigiano, ho un contenzioso con un mio cliente che mi deve una quota dell'importo di una fattura ed è quasi un anno che me la rilancia, la rilancia. Gli ho fatto un piano di rientro, mi ha sottoscritto un piano di rientro e questo non rientra di un bel niente. Non rientra di niente. Ho sentito uno studio legale il quale mi ha detto: vabbè, non c'è problema, portami qua contratti e tutto quanto, e lo citiamo in causa, andiamo dal giudice, questo ci paga qui, questo ci facciamo l'ho messa in mora, però ho visto che è una cosa che va avanti, mi hanno detto, mi parlano anche di 3-4 anni, ecco, prima di riuscire a vedere un qualcosa. Questo addirittura ha cessato l'attività, non ha ancora chiuso la Camera di Commercio, ma ha cessato l'attività furbescamente aprendone un'altra, e in 3-4 anni, se questo mi cessa e mi chiude l'attività, io non certo riesco neanche. Allora, a insomma, il tema è capire, Maurizio, se questo suo caso potrebbe essere tipicamente una controversia da portare ad un organismo di conciliazione per rientrare magari nel giro di 4 mesi di quello che le spetta. Allora, dottor Guardalupi, vengo da lei, visto che è un... Sì. Abita qui vicino Maurizio, quindi certo, magari potremmo essergli di supporto. Sicuramente un caso che può andare in mediazione, però dobbiamo fare una premessa. Perché così, tra l'altro, sto parlando di conciliazione perché mi viene più forse sì, non è il esatto. Il legislatore ha cambiato il termine, lo ha definito mediazione. La conciliazione è il risultato positivo della mediazione, ecco, secondo il decreto benissimo, legislativo. Siamo precisi, quindi, e chiamiamo le cose con i loro nomi. Quindi questo è un tipico caso da mediazione, però nella premessa che si era fatto prima si è parlato di un cambiamento culturale, cioè se le parti, è vero che il tentativo è obbligatorio, ma se le parti non hanno la volontà di addivenire ad un accordo, difficilmente la mediazione potrà essere il toccasana per tutto. Allora, se noi cambiamo mentalità, se lavoriamo in maniera diversa rispetto a questi conflitti, allora sì che la mediazione ci potrà dare una grossa mano. Le parti devono aderire volontariamente al tentativo di mediazione. Quindi sarebbero per esempio i passi da fare in questo caso? Allora, è Maurizio che naturalmente deve... Che il signor Maurizio faccia la richiesta di avvio di un tentativo di mediazione. Ma da chi va? Va da un organismo iscritto, riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Perché quello è un altro bel tema, capire qual è l'organismo autorizzato tema, dal esatto, Ministero. Esatto. Ecco. Infatti è la seconda premessa che volevo fare, cioè è vero che dobbiamo cambiare mentalità, ma è vero anche che il mediatore deve essere una persona formata adeguatamente, quindi che abbia in mano gli strumenti adeguati per poter aiutare le parti a trovare un accordo. Difficilmente, se il suo cliente non ha più intenzione di pagarla, difficilmente si riuscirà a trovare un accordo tra le parti. Ci deve essere la volontà di entrambi di trovare un accordo. Che cosa potrà fare in questo caso il mediatore? Andare a vedere, valutare con le parti quali sono gli interessi, perché se dall'altra parte l'unico interesse è quello di non pagarla, guardi che difficilmente lei riuscirà a trovare un accordo, ma sia in mediazione ma neanche in giudizio, perché se l'altra parte ormai ha già chiuso la sua attività e nelle sue intenzioni è proprio quello di non pagare, e allora non riuscirà a trovare una soluzione al suo caso. Poi mi piacerebbe sentire molto anche la considerazione del mondo legale sul caso di Maurizio, perché credo che poi con la crisi che c'è stata di recente magari casi di questo tipo fioccheranno da maggio di fronte agli organismi deputati proprio a trovare delle conciliazioni, perché noi siamo positivi e quindi auspichiamo tutte conclusioni positive, ma difficilmente sarà così. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. C'è Andrea da Padova, dopo i suggerimenti perché in viaggio. Avvocato Florio, lei che suggerimenti avrebbe dato al nostro imprenditore Brianzolo, insomma, che vorrebbe capire come poter rientrare di questo denaro che ormai dà per perso, peraltro avendo già proposto al suo cliente un piano di rientro in via, come dire, in maniera positiva, no? Via bonaria, forse la conciliazione o la mediazione potrebbe non essere la soluzione giusta per un caso come questo, però secondo lei vale sempre la pena tentare? Assolutamente sì, anche perché, ripeto, siamo uomini di legge, sappiamo che le leggi vanno rispettate e applicate. La legge c'è, la possiamo contestare. Volevo tranquillizzare il collega Giuseppe, che proprio nei giorni scorsi, insieme ai vertici dell'OA, che è un organismo politico. Ah, conosceva l'avvocato romano. Sì, Giuseppe, l'avvocato romano, che abbiamo preparato anche per questo congresso di Genova una mozione insieme, dove cercheremo di cambiare, cercheremo di rendere questa legge, se possibile, più perfettibile. Ma quello che a me interessa in questo momento è affrontare il problema, come quello del signor Maurizio, e ce ne saranno tanti di questi problemi, perché se lei pensa che passiamo dal condominio, dal diritto di famiglia, successione, affitti, danni per responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi bancari e finanziari, questi sono quelli che mi vengono in mente, non ce l'ho tutti, ma comunque sono questi, immagini il campo è molto vasto. Sono d'accordo con il collega, col dottore Guadalupi, è una questione di mentalità. Allora, se questa mentalità viene acquisita anche dall'avvocatura, da tutto il mondo professionale, e io credo che avvocati, commercialisti sono, dal mio punto di vista, le persone che possono offrire una garanzia migliore al cittadino, perché la conoscenza della legge permette anche di capire quando la strada è praticabile, dove si può arrivare, ma è chiaro che accanto a questo ci vuole una preparazione di base. Tutti siamo pronti, ecco, a fare i mediatori. Esatto, ma per esempio in Sicilia, avvocato Florio, sta capitando quello che sta succedendo in Lombardia, che sono improvvisamente fioriti come funghi gli organismi di conciliazione che si ritengono, evidentemente lo saranno, perché qualcuno li accrediterà come tali, perché a un certo punto, io credo, non dico dal 1 marzo in avanti, ma magari dal 1 maggio, dal 1 giugno del prossimo anno, quando questo strumento avrà cominciato ad essersi oliato, passatemi questo termine, magari insomma ci sarà più interesse da parte della gente, ma come farà a capire qual è l'organismo di conciliazione giusto? Questo, se non il, ma sicuramente tra i problemi più grossi. Lei pensi che attualmente sono stati accreditati come organismi di conciliazione oltre 160 enti? È un numero assolutamente sproporzionato e soprattutto non conosciamo la qualità di questi organismi di conciliazione. Quindi noi, come Consiglio Nazionale Forense, ma per quello che possiamo fare, abbiamo richiesto, attraverso una modulistica che abbiamo già predisposto, di rispondere a tutti questi enti per vedere chi sono, da quanto tempo si sono formati, chi sono i loro docenti, come faranno questi corsi per mediatori e conciliatori, perché purtroppo è venuto fuori anche un business, anche da un punto di vista finanziario. Qui in Sicilia, proprio da me, dalle mie parti, ho assistito a cifre, ho visto cifre allucinanti proprio per corsi di mediatori che onestamente non sono assolutamente adeguate a quelle che sono le richieste. A proposito di costi, visto che abbiamo introdotto anche questo aspetto, pagina 8 della guida di questa mattina, della guida pratica, Andrea Candidi, ritorno da te, visto che la conosci a menadito, avendola coordinata e organizzata anche esteticamente, c'è proprio tutto il tema degli oneri che si devono sostenere qualora appunto si voglia mediare su qualche conflitto. Le cifre mi sembrano anche abbastanza ragionevoli, perché l'obiettivo è anche quello, no? Permettere un accesso alla giustizia un po' a tutti senza dissanguarsi. Sì, c'è una tabella che è allegata appunto all'ultimo decreto, quello del Ministero della Giustizia, dove ci sono le cosiddette indennità per il mediatore che ciascuna delle parti deve versare, e ovviamente variano al variare del valore della lite, e quindi si parte, che so, da 65 euro per una causa il cui valore è fino a 1000 euro, per arrivare per cause oltre 5 milioni di euro, ma probabilmente riguarda un pubblico più limitato, che si pagano 9200 euro per ogni parte. A questo bisogna aggiungere soltanto altri 40 euro di spese iniziali, quindi diciamo che da questo punto di vista è sicuramente un vantaggio per le parti, perché costa molto, molto di meno che attivare un giudizio ordinario. Cosa pensi di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento e del fatto che stanno proliferando in Italia organismi che si definiscono accreditati a svolgere il ruolo di mediatori, appunto, e quindi hanno cavalcato questa novità di portata enorme che sta arrivando proprio solamente come business? Come ci difenderemo? Hai voglia a fare guide pratiche, Andrea, da marzo in avanti? Lì ovviamente è vero quello che diceva l'avvocato Florio, che sono tanti 160 organismi accreditati. È pur vero però che questi sono chiamati a dover risolvere un certo numero di controversie che secondo alcune stime può arrivare anche a 1 milione. E quindi che ci sia questa diffusione sul territorio tutto sommato non è un male. Evidentemente quello che conta è il controllo della qualità, e su questo il decreto del Ministero pone dei paletti ben precisi, quindi sono dei requisiti particolari, precisi, dettagliati, che i mediatori devono avere per essere inseriti nell'elenco dei mediatori. C'è una cosa straordinaria alla quale assistiamo, che ogni giorno in Gazzetta Ufficiale, perché questi provvedimenti di accreditamento, diciamo così, riconoscimento, autorizzazione, chiamiamolo come vogliamo, di questi organismi vengono pubblicati in Gazzetta. Ogni giorno ce ne sono 3 o 4 o 5. Perché evidentemente è anche un affare, e su questo non c'è dubbio. Allora, Andrea da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Senta, grazie di avermi chiamato. Io ho una controversia con un mio affittuale. Praticamente noi abbiamo ereditato da mio papà, che è deceduto, un appartamento. Siamo in 4 fratelli e abbiamo un affittuale dentro che non vuole andare via. Abbiamo portato a termine il contratto di affitto, abbiamo mandato disdetta come regolare scritto sul contratto, e lui non intende andare via, insomma. Abbiamo avviato le pratiche di sfratto e una cosa l'altra. Paga almeno Andrea oppure è anche moroso? No, paga, lui intende proprio pagare, sì, però non intende andare via. Noi abbiamo bisogno della del casa. Locale, della casa, una cosa, non per andarci a abitare, ma per eliminare. È una proprietà, ne vuole disporre, esatto, come meglio crede, certo. Esatto, e non riusciamo a mandarlo. Lui ci ha detto, io non intendo andare via, volevo sapere perché abbiamo la pratica avviata e tutto quanto, volevo sapere se rientravo nella mediazione, sì. A chi potrei rivolgermi, no, tra l'altro, qua a Padova. Ecco. Bravo Andrea. Per gli sfratti, insomma, ecco. No, tra l'altro diciamo che adesso qui non è una conflittualità derivante da un affittuario moroso. Dottor Guadalupi, c'era fino a questo momento una serie di opportunità che comunque era molto simile a questa mediazione che adesso diventerà obbligatoria a partire da marzo. C'erano, per esempio, ci sono le conciliazioni presso le Camere di Commercio, io posso suggerire ad Andrea di intraprendere questa strada, ce ne sono tante anche attivate tra singole aziende, nel telecom con le associazioni dei consumatori, questo non è il caso di Andrea, ma piuttosto che farla aspettare a marzo, perché magari ne ha bisogno un po' prima, che cosa potrebbe fare il nostro ascoltatore? Beh, è una questione che può essere già portata in mediazione, perché il decreto legislativo è abbastanza chiaro su questo, proprio l'articolo 2 che ci dice che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione. Quindi in qualunque materia oggi la mediazione facoltativa è consentita, non è in questo momento obbligatorio quel campo, ma è comunque consentito, anzi è auspicabile che il nostro ascoltatore la attivi. Come potrebbe fare a cercare l'organismo che fa per sé su Padova? Gli organismi, quelli accreditati, li troviamo sul sito del Ministero della Giustizia, su www.giustizia.it, inserendo in ricerca il termine conciliazione o mediazione troviamo tutti gli organismi accreditati. Per ritornare anche al discorso precedente, un altro sui costi della mediazione, volevo anche ricordare che per controversie, cioè fino a 500 euro c'è anche un credito d'imposta. Ah, ecco, è vero, il vantaggio fiscale, per le parti vanno incontro in mediazione, e quindi fino a un contributo nel momento in cui la mediazione si conclude con una conciliazione, quindi con un risultato positivo, c'è il credito d'imposta di 500 euro, per cui potremmo anche trovarci in condizioni in cui il contribuente, la parte che arriva in mediazione, non paghi assolutamente nulla al benissimo, mediatore. Benissimo, allora noi abbiamo così rifatto un po' di abitudini su questa novità, ma da qui a marzo avremo tempo per rifare tante trasmissioni e ridarvi ancora tanti altri dettagli pratici su come così utilizzare al meglio questo canale per mediare le controversie. Grazie ad Andrea Candidi, a Marcello Guadalupi, Fabio Florio per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani, magari Andrea di Padova ci scriva, cercheremo di darle qualche indicazione un po' più concreta rispetto al suo caso. Noi ci sentiamo domani, buona giornata.